Ecco, allora abbiamo appena sentito un audio nel quale Nardella minaccia e avverte che ha un software pronto per le mille telecamere installate con il riconoscimento facciale, e questo un po' ci introduce alla questione delle ordinanze che le varie istituzioni a livello sia regionale che comunale stanno emanando. La domanda è quello che sta succedendo, visto che comunque il Consiglio Comunale immagino abbia gli stessi problemi di tutta la popolazione, cioè non si può riunire. Quindi come state gestendo questa situazione? Quali sono le sensazioni da componente dell'opposizione in un Consiglio Comunale come quello di Firenze? Diciamo, la premessa di, come consigliere comunale di opposizione è che noi abbiamo la difficoltà a evidenziare una serie di questioni perché ovviamente verrebbero liquidate di fronte all'opinione pubblica dicendo che siamo degli irresponsabili, che è una cosa che in qualche modo ci è già stata detta, perché la logica è mentre le persone muoiono, voi volete continuare a fare polemica. La nostra però non è una polemica, è quanto proprio il diritto che abbiamo, se non il dovere, di controllare quelle che sono le decisioni che vengono prese. Quindi parto dalla questione delle telecamere. Non è che lui si sveglia una mattina e su Facebook dice che quelle telecamere verranno utilizzate per controllare le persone. In realtà lui credo che intendesse i dati aggregati, che non hanno bisogno delle telecamere, ma sono quelle legate ai telefoni. È una vecchia ossessione che il sindaco di Firenze ha, quella di poter fare il riconoscimento facciale con le telecamere. Fino ad oggi quelle telecamere sono in grado di fare il riconoscimento facciale perché ormai tutte le telecamere che vengono installate hanno un'alta qualità di risoluzione, quindi è più che altro è una questione di software. Fino ad oggi ufficialmente è stato bloccato dalle questioni della privacy, dal garante della privacy. E su questo scoglio continuerà probabilmente a batterci. E quindi è improbabile che in questi giorni lui cambi qualcosa rispetto all'utilizzo delle telecamere. Di sicuro negli anni o in ogni occasione lui ha ripetuto qual è il suo scopo. Le ultime due occasioni infelici sono state quando è andato a Mosca e a Tel Aviv, ha parlato di Grande Fratello Buono. Quindi qual è l'idea di questo sindaco anche prima che scoppiasse la questione Covid-19? È ben chiara. E questa è stata un'occasione per tirarlo fuori. Noi abbiamo un po' di difficoltà a reperire gli atti e le decisioni che vengono prese, lo stiamo continuando a fare perché come gruppo consiliare ci siamo organizzati tramite telelavoro, quindi continuiamo a funzionare a distanza. Stiamo chiedendo che attraverso questo, perché ovviamente l'altro ricatto è chi lavora, quindi se uno chiede che il Consiglio Comunale possa continuare a svolgere la funzione di controllo verso la Giunta, c'è la questione dei dipendenti comunali. Però diciamo che si possono risolvere queste questioni attraverso internet, i VPN, insomma ci sono le possibilità per agire, quindi soprattutto in questa settimana che inizia, dove è chiaro che l'atteggiamento dell'amministrazione è quella di criminalizzare i comportamenti delle singole persone, mentre sulle imprese e sulla tutela dei diritti dei lavoratori si fondamentalmente rimanda tutto, se va bene, al livello nazionale, è chiaro che non può andare bene. La questione ormai va avanti da diversi giorni, la Giunta decide tutto in eccessiva autonomia, senza dare spiegazioni. C'è stata la questione delle telecamere, poi c'è stata la questione dei container in Viale Guidoni, anche una cosa relativamente piccola come quella dei fontanelli, in realtà ha creato un po' di disagio a delle persone che erano abituate ad andare a prendere l'acqua ai fontanelli. Poi chiaramente la risposta è in questa fase di emergenza si utilizza l'acqua pubblica. E non è forse il problema maggiore che ci ritroviamo a affrontare, però mi sembra che sia evidente qual è la scelta che è stata fatta. Si fanno delle ordinanze, si prendono delle decisioni che vanno a colpire i comportamenti delle singole persone, peraltro inserendosi su delle volontà espresse in periodi assolutamente precedenti e che ci vedono molto preoccupati per quello che sarà il futuro, perché poi sarà quando si fanno le cose, diciamo così, è più difficile poi tornare indietro. Quindi una volta che si rompono alcuni tabù o si va avanti su alcune cose che eravamo riusciti a impedire in passato, la preoccupazione è molto forte. Ecco, dicevi, dici appunto, questa linea, diciamo, era già presente prima e adesso però ha, diciamo, campo libero. La sensazione mia, nostra, della redazione della radio è un po' che ci sia un azzeramento dello spazio per le discussioni, lo spazio per la politica, di fatto, cosa che è dimostrata anche dalla totale accondiscendenza di tutte le forze politiche, anche a livelli maggiori. Voi percepite che sia così? Sì, confermo. Io posso dire, mi assumo, diciamo, la responsabilità di dirlo, ma quando si parla di stato di esercito nelle strade, di coprifuoco, io percepisco quasi, non dico il piacere a immaginarsi una cosa del genere, ma non il giusto sdegno che ci dovrebbe essere, cioè sono cose che dovrebbero mettere i brividi a chiunque si consideri, dico, di sinistra, no, democratico, che dice di richiamarsi alla Costituzione. Invece, se si guarda quelle che sono le forze del centrodestra, del cosiddetto centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, esplode la retorica della legalità e quindi una serie di cose che peraltro sarebbero anche illegali, come coprifuoco o avere l'esercito per le strade, scopri che non sono assolutamente disdegnate. E questo purtroppo è trasversale e c'è una gara a chi si mostra più responsabile. Forse nel nord Italia il conflitto tra governo e regioni è un po' diverso da quello che stiamo vedendo a Firenze e in Toscana. Per quanto riguarda noi, però, è difficile dire che c'è un'opposizione. Diciamo, la nostra appartiene a una tradizione anche extraistituzionale, quindi forse non conta nemmeno troppo, però è una voce isolata. Anche sul fatto che il Consiglio Comunale, le commissioni del Consiglio Comunale non si stiano riunendo e non ci sia modo di lavorare. Adesso forse stanno iniziando a emergere un po' di voci critiche negli ultimi giorni, ma soprattutto all'inizio era molto isolata la nostra posizione. Tant'è che appunto chi osa mettere in discussione viene detto che è un irresponsabile e fa una sorta di speculazione. Anche semplicemente porre le domande è una posizione che viene messa in discussione. È quella retorica della guerra che viene utilizzata, per cui quando sei in guerra si sospendono tutti i diritti, però in realtà questa è una guerra. Non è forse propriamente una guerra, è più un problema riguardo al nostro modello anche di società e di come affrontiamo questa emergenza e quali persone vengono lasciate indietro. Anche chi ha scioperato in questi giorni, anche nel comune di Firenze, devo dire la verità, non è stato forse criminalizzato troppo, ma sicuramente è stato ridicolizzato, non preso seriamente in considerazione. Penso allo sciopero che c'è stato per l'assistenza domiciliare. E la reazione della giunta è stata dire che alla fine erano 6-7 lavoratori, quindi diciamo il problema non si poneva e la questione da cui nasceva lo sciopero invece era il problema dei dispositivi di protezione individuale, quindi è la salute del lavoratore. Rispetto ai cassieri dell'Esselunga che hanno dichiarato sciopero non c'è stata una presa di posizione e anche qui adesso siamo in una situazione dove tutti i lavori che vengono svolti vengono paragonati a servizi essenziali. E al lavoratore si nega di fatto il diritto di sciopero. Anche questo è gravissimo. Il fatto che non ci sia una reazione, diciamo, da parte delle principali forze politiche conferma quella sensazione che mi descrivi tu, assolutamente. Ecco, poi visto la discrepanza tra quello che viene detto e quello che viene scritto sui decreti, principalmente su quello del Presidente del Consiglio dei Ministri, fra quanto viene fatto e quanto si dovrebbe fare, e cioè il fatto che vengono criminalizzate azioni come può essere uscire a fare una passeggiata alle cascine o andare a prendere l'acqua a un fontanello, qual è l'obiettivo ultimo di questi tipi di ordinanze, di questo tipo di azioni? O almeno qual è quello che te intuisci, essendo più vicino alle decisioni della Giunta? Credo che sia tentare di ritornare a come eravamo prima che scoppiasse questa situazione, perché è evidente che quella società in cui viviamo e vivevamo era particolarmente fragile. Basta pensare che Firenze svela di essere principalmente legata a quel fenomeno di overtourism e di esportazioni che pure veniva anche criticato, tra l'altro negli ultimi 2 anni forse, non di più. Da parte anche del governo cittadino. Questa concentrazione sui comportamenti individuali io penso che serva a non mettere in discussione quel modello lì. perché poi quando usciremo da questa situazione si chiederanno sacrifici, sempre i soliti, e quindi questa costruzione e questa criminalizzazione diventa che la colpa per cui siamo stati fermi così a lungo è del vicino di casa irresponsabile che porta troppe volte fuori il cane, non di Confindustria che blocca addirittura un governo nazionale nella scelta di sospendere alcune attività. Per cui si minimizza quelli che sono i problemi strutturali, i problemi più grandi, e si va a criminalizzare i comportamenti individuali. Quindi è un modo per uscire da questa situazione peggiore di come ci siamo entrati, quando l'opportunità sarebbe uscirne invece migliori, e in questo modo se ne esce con minori tutele rispetto a quelle che sono le libertà individuali e maggiore criminalizzazione rispetto a chi non rispetta e ubbidisce a delle leggi o dei decreti che fra l'altro non vengono nemmeno discussi, perché ti arrivano dal livello centrale, ti arrivano dall'alto e tu devi in qualche modo ringraziare perché hanno pensato a te, stare in silenzio e ubbidire. Questo è un po' il meccanismo che passa. Una volta che ci si abitua a questa logica è chiaro che diventa difficile poi uscirne, quindi c'è questo elemento qua secondo me di fondo, e in più una difficoltà rispetto a una politica che ha sempre contato meno negli ultimi anni e che di fronte a quelle che sono le volontà delle grandi imprese e quella che è la volontà della finanza non ha nemmeno la possibilità di fatto di intervenire, si mostra impotente e quindi compensa mostrandosi forte rispetto ai comportamenti individuali. Io vedevo oggi, cioè, per chiudere questo ragionamento con un esempio, io vedevo oggi una pattuglia di carabinieri in piazza mentre andavo a prendere il giornale con un pensionato, una persona anziana che li fissava dall'altro lato della strada, si guardavano e mi immagino che i carabinieri si interrogassero se dovevano chiedere l'autocertificazione a questa persona. A un certo punto è passato da lontano un ragazzo che correva, e anche lì l'indecisione se andare, se inseguirlo per chiedergli l'autocertificazione o rimanere fermi, perché poi nella concretezza questi provvedimenti di criminalizzazione loro ci raccontano i numeri delle multe che fanno, dei controlli che fanno, ma è chiaro che non è quello il problema sono i grossi movimenti per chi comunque continua ad andare a lavorare, per chi lavora senza le condizioni di sicurezza e poi torna in famiglia o torna dove sta vivendo e quindi rischia di contagiare le altre persone. Quindi questo è un po' un problema. Da una parte quindi secondo me c'è una volontà politica molto chiara di uscire da questa crisi con una popolazione più ubbidiente, e dall'altra c'è una forte difficoltà di chi governa che non ha poi effettivamente potere rispetto a Confindustria o alle grandi imprese, e magari non sono nemmeno dentro Confindustria. Ecco, fra l'altro, prima hai citato l'overtourism e io una domanda te la vorrei fare su questo, perché proprio il sindaco pochi giorni fa ha avuto il coraggio di stupirsi del fatto che la città sta respirando. E, quindi in questo senso la domanda è, secondo te c'è o ci fa? Nel senso, risponde a logiche di consenso oppure no? Allora, a Firenze, lì non c'è questa, diciamo, è un'opinione che do sul centro-sinistra da tanti anni, dal movimento No Global in poi. Il centro-sinistra ha sempre questa presunzione di poter governare il capitalismo con un volto più umano, e poi scopre che è un'ipocrisia. Anche sull'overtourism, io credo che a Firenze sia andata così, cioè io riconosco che negli ultimi mesi la giunta si è accorta che avevamo un problema. Poi, diciamo, l'entità del problema non le era chiaro, o comunque non gliene fregava niente, perché poi quali sono le priorità da tutelare sono sempre le stesse. Lo ha avuto come conferma con questo fenomeno, e soprattutto hanno chiaro che quando eventualmente finirà questa fase di emergenza non è che torneranno gli stessi flussi di prima a livello di turismo. Quindi hanno chiaro che dovranno individuare alcune scelte. C'è stata una frase secondo me pericolosa in consiglio comunale, uno degli ultimi abbiamo fatto, forse il penultimo, in cui il sindaco ci ha detto esplicitamente, siccome anche lì il centrodestra, il centrosinistra e 5 Stelle facevano a gara, le prime misure da prendere erano la sospensione delle tasse alle imprese, e quindi c'era un concorso di accaparrarsi la paternità di questa posizione politica. Il sindaco ha detto esplicitamente che poi quando ci saranno da fare dei tagli ai servizi lui non vuole sentire opposizione su questo tema, perché è chiaro che se si tagliano le tasse alle imprese, da qualche parte queste risorse vanno recuperate, e ha parlato esplicitamente dei servizi alla cittadinanza. Era una frase così volante che però abbiamo ricevuto in maniera molto, molto chiara. Quindi ci fa, direi, sicuramente ci fa. Questa è la necessità di far presente qual è la situazione, che il modello che avevamo prima era comunque insostenibile e che danneggiava anche la salute di chi viveva in città. È un tema che dovremmo continuare a ricordargli, a costo di essere ritenuti degli sciacalli, come ci dicono, però sicuramente è un dato. In città anche i dati, cioè, meno turisti, meno bus turistici, meno inquinamento c'è in città, dei benefici è evidente che ci sono. Poi ci possono dire che la nostra città è stata governata in modo tale che oggi è in ginocchio, e questa è una grande responsabilità che loro hanno in realtà. L'ultima domanda che vorrei farti è un po' sul decreto del Presidente dei Ministri, uscito poche ore fa, pochi minuti fa, potrei dire, se un commento, non lo so, per me è stato assolutamente, veramente assurdo leggere l'elenco delle attività che possono continuare tranquillamente ad andare avanti. Non lo so se vi siete fatti un'idea all'interno del gruppo. Sì, e anche qui la responsabilità è condivisa dal livello nazionale al livello degli enti locali, perché è chiaro che c'è una sorta di impotenza, che dicevo prima, rispetto alle decisioni che vengono prese. Fino a che tu chiedi alle persone, ai dipendenti pubblici o comunque a chi è più debole anche all'interno del tessuto produttivo di stare a casa, non ci sono problemi. Nel momento in cui ti vai a scontrare con Confindustria e le grandi imprese, ecco che rimbalzi. Anche l'idea di dover aspettare ulteriori 2 giorni rispetto a delle persone a cui ti chiedi di continuare ad andare a lavorare, quindi gli chiedi di continuare a rischiare la loro salute, perché una minoranza della popolazione, un'assoluta minoranza della popolazione, ti ha detto di avere dei dubbi. E tu accetti questa logica del fatto, è assolutamente indecente. E questo però vale anche a livello locale. Ieri, nella dinamica di ieri, mi sembra che da parte della FIOM di Firenze è arrivata la richiesta che il sindaco di Firenze facesse dei controlli, perché comunque spetta all'ente locale controllare che all'interno delle aziende vengano rispettate quelle misure del metro di distanza o dei dispositivi di protezione. E l'unica risposta che è arrivata è stata una lettera firmata dal sindaco di Firenze, dai sindaci della provincia e altri della Toscana, che, a cui in qualche modo la risposta è stato il decreto del governo, che però è assolutamente insufficiente. Ad esempio, lì chi va a controllare che quelle poche decisioni che vengono prese vengano rispettate? In realtà nessuno. Il controllo appunto è sui comportamenti individuali, quindi si torna lì, è una logica che si tiene. Ecco, ma io capisco politicamente che sia difficile far fronte a una situazione inedita, però è chiaro quali sono gli interessi che stanno difendendo, sono gli interessi di una classe specifica che non è di quella che lavora. Ecco, secondo te si corre il rischio, ad esempio, di agevolare ulteriormente l'ingresso di grandi gruppi di investimento in una città che avrà ancora più necessità, diciamo così, di un sostegno alla sua economia del turismo in futuro? Assolutamente sì, finita la crisi. Assolutamente sì. Perché faccio un esempio sulla questione della casa, ma comunque la risposta in generale è sì, ma una persona che vive in affitto, io ad esempio a Firenze sono uno di quelli che resiste pagando l'affitto e vivendo in città, se avrà difficoltà a pagare l'affitto dovrà via via anche lui allontanarsi. Già c'era questa tendenza per cui gli sfratti non erano più per morosità, ma per finita locazione, non ti veniva rinnovato perché era più conveniente darlo ai turisti l'appartamento, e quindi anche chi regolarmente si pagava l'affitto veniva buttato fuori. Ora questa tendenza rischia di essere ancora più forte, e i grossi gruppi avranno chiaramente troveranno una cittadinanza ancora più impaurita, ancora più debole, e quei famosi piccoli proprietari che vengono tutte le volte ricordati dalla giunta avranno ancora più una tendenza favorevole a vendere, e dal punto di vista del pubblico ci sarà necessità di fare cassa. E anche lì, quindi, probabilmente si vedrà un occhio. Io penso alla quella che quella era una cosa più nazionale, ma che ha delle ricadute locali, per cui si diceva che bisogna sbloccare le grandi opere. A Firenze sappiamo benissimo quali sono le grandi opere da sbloccare. arriveremo al ricatto, per cui ad esempio il che sarà il paradosso assoluto secondo me che ci attende sull'aeroporto, sul nuovo aeroporto che produce più inquinamento e che produce ancora di più un modello basato sul turismo, e ci diranno che però è necessario per far ripartire l'economia. Quindi sì, secondo me il rischio è evidente, questo a fronte della retorica del far tornare la cittadinanza a vivere in centro, ma quella secondo me nel brevissimo periodo forse ci potrà essere qualche provvedimento, ma se immaginiamo di qui a 5-6 anni sarà cambiato anche il sindaco, sarà cambiata la composizione della maggioranza e quindi quegli interessi economici delle grandi imprese in città saranno più forti. Se non c'è un'adeguata risposta da parte nostra, non sono fatalista, è chiaro che questo deve essere un motivo per lottare in maniera più consapevole e più decisa. Bene, ti ringraziamo, ti dico buon lavoro e grazie a voi. Presto. Ci aggiorniamo. Ciao, grazie. Ciao.